Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Io sono stata truffata, ma perché quando la storia ha cominciato a prendermi, diciamo, questo interesse di questa persona verso di me, lui mi ha cominciato a raccontare che era stato spostato dall'Afghanistan, andato in un altro paese e che si trovava in un orfanotrofio a visitare dei bambini, che ci aveva la pena nel cuore, li voleva aiutare, e mi ha chiesto un contributo che io ho inviato, che con le fotografie di... Naturalmente poi mi ha chiesto altri soldi che io non ho mandato, perché... Ma la storia è andata subito, guarda, quella vita le dà dei segnali, perché nel momento in cui facevo questo pagamento, tra l'altro con un sistema molto complesso, un sistema francese per cui non puoi risalire alla persona, con i soldi liquidi si va al tabaccaio, si paga e si fanno come si inviano questi soldi e tu non sai dove. Ricordate, qualche settimana fa parlammo delle truffe amorose, ci eravamo presi l'impegno, visto che le storie erano tantissime e l'argomento non era esaurito, di ritornarci. Riassumo brevemente, per chi non avesse sentito l'altra puntata o non stia seguendo la campagna che sta facendo anche la RAI con Chi l'ha visto. La truffa amorosa è un meccanismo molto semplice: si vanno a cercare in rete, sia nei social network, sia nei siti di dating, cioè i siti dove la gente va espressamente per trovare compagnia a vario tipo, a vario genere, soprattutto profili di donne sole. Sole non vuol dire che non siano sposate o fidanzate, donne sentimentalmente sole, donne che si annoiano, donne deluse, donne che hanno mai sistemato la loro vita e quindi hanno bisogno di reinvestire sentimentalmente su di sé. Si studia attentamente con uno staff tecnico, ma altamente professionale, quelle che sono appunto i desideri, le tendenze, l'habitat, il gusto, ciò che la donna cerca veramente in un uomo. Una volta che la si è studiata, parte l'attacco. L'attacco sotto forma di un profilo fake di un uomo, sempre molto rassicurante, molto affascinante, spesso un militare, un poliziotto, una persona comunque con una divisa, una persona che ispiri serenità e tranquillità. La donna comincia una relazione online con questa persona, chattano, si sentono, l'incontro virtuale è quotidiano, più volte al giorno, si crea un rapporto di fiducia, poi un rapporto affettivo, poi scatta l'amore. A quel punto inizia il desiderio della donna di vedere questa persona, dice: ma perché non ci vediamo? E lì cominciano dei problemi, perché sono lontano, mi serve il biglietto, mi servono soldi, e comincia un lento stillicidio che alla fine è una richiesta di denaro continuo. Molte donne, ve la faccio breve, si sono rovinate, hanno dato fondo a loro tutti i loro risparmi, alcune hanno comperato addirittura il vestito da sposa pensando sarebbe arrivato questo principe azzurro e l'avrebbe sposata. In realtà dietro c'è un'organizzazione criminale che agisce, colpisce in tutto il mondo, sta cominciando a colpire anche in Italia. C'è titubanza, reticenza a parlarne, perché una madre di famiglia, magari separata o vedova, si vergogna di dire ai figli già grandi: guardate, la mamma a 60 anni si è innamorata di un uomo, pensava fosse l'uomo della sua vita, era felice, ma in realtà mi ha portato via tutti i soldi. Dietro, ripeto, ci sono dei call center, spesso in Centro Africa, immaginate un call center con ragazzi del Ghana di 20 anni, perfettamente addestrati, che arrivano la mattina, si prendono l'elenco delle signore, cominciano a chattarsi passando l'una all'altra, perché tanto hanno una scheda ben precisa, e alimentano questo sogno amoroso, e al momento giusto chiedono soldi. Ci siete mai cascati? E avete sentito che qualcuna delle vostre amiche, o anche dei vostri amici, perché questo vale anche per gli uomini, anche se il vero fenomeno emergente è giocare sul desiderio delle donne di avere una storia d'amore. Non c'è dietro sesso, non c'è promiscuità, non c'è desiderio compulsivo di avere rapporti sessuali che passa attraverso altri canali. No, c'è semplicemente l'illusione di aver trovato persone che ti capiscono, che ti comprendono. In realtà questo capire, questo comprendere è tale perché? Perché c'è una rete di psicologi, di esperti nella gestione comunque dei rapporti umani, gli stessi che fanno i cacciatori di teste nelle aziende, che consigliano questi ragazzi, li formano, e lo scopo è turlupinare e sgrassare fino all'ultima lira la povera assetata d'amore. 800 24 0024. Oggi continuiamo con le storie delle truffate d'amore. Melog. Cronache meridiane. Io ho fatto l'esperienza personalmente, e quello che si è presentato a me che inizialmente ha presentato un falso profilo con una foto da giovanotto, alla quale io ho risposto: per me sei troppo giovane, arrivederci, grazie. Mi ha poi detto: no, guarda che io ho 63 anni, mandandomi una foto invecchiata, quindi non è detto. Il target è di diciamo generazionale e viene ricavato fra le donne tra i 40 e i 60, 65 anni più o meno, non necessariamente single. E spesso e volentieri, per evitare il rischio di commettere errori, ti chiamano con dei nomignoli tipo Honey, Darling. Il tuo nome lo scrivono. Beh, questa diciamo è una tecnica antica quanto il mondo. Chiaro che ha più rapporti che gestisce contemporaneamente, non chiamerà mai per nome le proprie amanti o i propri amanti: tesoro, amore, dolcezza, patata, cioè si può dire qualunque cosa, purché non ci si sbagli mai nel pronunciare il nome sbagliato con la persona sbagliata. Questo lo sanno anche i giovani operatori nei call center del Ghana, e quindi sono tutti zucchero, amore, dolcezza e via dicendo. Oggi riprendiamo le truffe amorose, come vi ho annunciato, con delle storie. Mi piacerebbe cogliere nuove storie rispetto a quelle che abbiamo già ascoltato, preparato, che vi proporremo. Vorrei che le ascoltatrici, che sicuramente hanno notizia nella loro cerchia di amiche o loro stesse, di raccontarci la loro storia. Perché lo chiedo? Non perché dobbiamo scoprire dinamiche nuove, ormai il meccanismo mi sembra molto chiaro. Perché dobbiamo aiutare le donne a uscire da questa sorta di circolo della vergogna, per cui non ne parlano, perché è chiaro, per una donna sentirsi truffata su ciò che ha di più intimo, di più segreto, di più riposto, è considerata una vergogna, soprattutto perché magari si considerava fuori target, fuori età, fuori categoria per poter aspirare ancora a un atto di amore vero. Guardate, lo dico per fugare subito i dubbi da chi già mi sta mandando sms: vanno a cercare. No, non vanno a cercare nulla. La maggior parte delle donne, anzi la totalità delle donne, non sa di avere un interlocutore davanti, un giovane ragazzo africano, quindi non cercano nulla, pensano di aver davanti magari un attempato generale in pensione, non lo so, oppure un poliziotto che ha passato mille avventure. Pensano sempre davanti un uomo tranquillizzante, rassicurante, un uomo buono che possa occuparsi di loro. Per questo è ancora più insidiosa questa truffa. Sento subito Yolanda. Yolanda, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica pure Yolanda Bonino, perché proprio come ha detto lei prima, non c'è nulla da vergognarsi a dire nome e cognome, perché può capitare di cadere, di essere vittima del cybercrime. Del resto io sono una persona umana, sono mica un robot. Sì, ma visto che lei ci dà lo spunto, avrei centellinato il suo cognome e anche quello che lei fa nella vita. Vorrei prima proprio trattarla, certo, trattarla come una classica vittima. Come una classica vittima di questa truffa. Mi fa piacere, certo. E anche perché voglio mettere in luce che tante donne come me provano, hanno delle debolezze, abbiamo delle debolezze, delle vulnerabilità. E non siamo comunque delle sprovvedute. Però guardi, comunque sia, quando ci si affida, adesso non voglio dire luoghi comuni, quando ci si affida all'amore si è sempre deboli in qualche maniera, perché altrimenti non sarebbe un rapporto affettivo. In parte ci scopriamo, mettiamo sul tavolo qualcosa di molto personale. Un po' ci fidiamo, l'amore è fatto anche sulla fiducia, perché sennò uno se ne starebbe chiuso dentro casa. Vediamo come è cominciata la sua storia. Assolutamente vero, però voglio solo insistere che l'amore non è solo quello fra due persone, ma c'è anche l'amore universale. È quello che, per esempio, ti fa dare in modo generoso, senza aspettarti niente in cambio. Tanti sentimenti che abbiamo noi donne, che è la compassione, la pietà verso un altro, e questi estofanti sono abilissimi. Mi faccia un esempio, mi racconti la sua storia, partiamo dal caso. Come è cominciata? Allora, incomincia nel 2014, e in quel periodo qui in Italia nessuno, ma proprio nessuno, almeno nel mio entourage, che è davvero molto esteso, nessuno conosceva questa tipologia di truffe affettive. E quindi ovviamente anche io non avevo la più pallida idea che qualcuno volesse circuirmi per avere del denaro, visto che poi non sono ricca. Di solito uno immagina, diciamo, un rapporto che nasce attraverso la rete può essere al massimo finalizzato in un incontro fisico, in una conoscenza. Uno può barare, dire che non è sposato, dire che non è fidanzato, però alla fine è difficile che pensare che lo faccia per denaro, uno pensa lo faccia per altri tipi di scopi. Ma certo, infatti fino allora credevo che gli uomini ti corteggiassero per altri scopi e dunque ho accettato serenamente l'amicizia di un sedicente ingegnere francese di Champagné, che è una città vicino a Lille. Ho controllato, esisteva sta città e tutto. Inizia poi tutto con un cucù, che è un saluto alla francese, no? Allora io rispondo e da lì nasce un'intensa relazione che poi è sfociata anche nell'innamoramento. Questo ci sta, questo può succedere a chiunque, non c'è nulla di particolare. Ma di sì, anzi, ben vengano. E comunque lui è una... Su cosa faceva leva? Mi scusi, io faccio domande. Su cosa faceva leva questo signore per farla innamorare? Era romantico, era molto attento. Era una persona educata, intelligente e con la quale potevo conversare di tutto e star bene. E poi, sa che cosa? Mi alleviava una condizione che stavo vivendo in quel periodo. Cioè, intendo, dovevo restare per tanto tempo a casa. Io che sono abituata a confrontarmi col mondo, essere sempre fuori casa, ma dovevo stare in casa perché per i soliti lavori di cura, che caratterizzano anche tante donne come me. Ma lei si stava curando comunque? Cioè, stava no, un momento... non mi stavo curando, stavo facendo compagnia e volevo stare più a lungo vicino alla mia mamma, molto anziana. Ancora più critica, diciamo, è un momento... Sì. Di assistenza a una madre anziana. Ma questa cosa, Leva, in qualche maniera appalesata nei social network? Era... Ma no, mi piaceva avere un amico di penna. Sì, ma come ha fatto questa per persona a capire che lei era in questo momento di fragilità? Quale segnale ha dato lei verso l'esterno perché diventasse una vittima? Perché io non credo che loro studino, non sempre studiano a monte, vanno giù come a pioggia almeno per... Pesca strascico. Pescano, prendono, poi dopo da lì si organizzano, architettano, ti studiano, non c'è sempre un filone identico. Qual è stato il primo segnale che andavano a batter cassa in realtà? Dunque, il primo segnale è stato che lui mi ha detto che partiva per la Costa d'Avorio, era un ingegnere, ci stava e quindi ci ho creduto, no? Poi va in Costa d'Avorio e mi dice che lì si trova male, che c'è tutto un giro di corruzione, incomincia a raccontarmi le cose, io controllo sempre tutto su internet, c'è il cantiere, c'è tutto. E poi cosa succede? Che mi dice che viene derubato, e questo mi lascia un po' perplessa, no? Viene derubato da alcuni bianchi, controllo anche in internet, c'è una notizia che c'erano stati dei disordini lì in Costa d'Avorio. Quindi era plausibile, era tutto certificato. Ma sì, era tutto plausibile. E questa cosa mi lasciava così. Poi lei prima mi chiedeva come ha fatto farmi innamorare. Beh, insomma, lui mi toglieva tante curiosità, no? Per esempio mi raccontava del suo lavoro, delle sue cose, insomma, della Francia. E poi mi aveva anche... ero anche in un certo modo riconoscente. Sa perché? Perché... mi aiutava nell'uso dei strumenti digitali, no? Io non ero molto avvezza a certe cose, per esempio non usavo Skype, e mentre i giovani, no? Io non ho figli, però non so, i giovani ti dicono... ma su Skype non lo vedeva in faccia questo personaggio? Sì, ma mi ha insegnato lui ad andare in Skype. Ma lo vedeva in faccia lei? Certo che lo vedevo, a parte che io sono ipovedente, ma comunque lo vedevo, erano poi delle fotografie, però io credevo fosse vero. Sì, ma quando chattava in che lingua parlavate? Parlavamo in francese, poi a un certo punto, siccome lui parlava spedito, però un francese, non era parlato da un africano, perché era proprio un accento francese, e non riuscivo a stargli dietro a capire, allora gli avevo detto, ma torniamo a scrivere, perché è meglio, e da lì avevo cominciato ad avere anche le prime perplessità. Perché ma dalla voce non sembrava una persona più giovane di quello che... dalla voce no, una voce normale. No, assolutamente. E comunque dallo scritto risultavano degli errori di sintassi, di ortografia, che era un po' strano per un ingegnere, però mi sono anche detta, ma adesso si storpiano le parole, le frasi, scrivendo... Però Yolanda, mi risponde alla domanda precisa. Sì, quando ha cominciato a batter cassa, quanto le ha chiesto la prima volta? Ma lui non ha chiesto, perché fa in modo per farseli offrire. Lui ha cominciato a dire che aveva dei dolori, ha pianto in diretta in telefonata, aveva dei dolori tremendi al ventre, e poi che sarebbe venuto da lì a poco il medico in albergo. Il medico arriva, le diagnostica una peritonite, deve essere operato immediatamente, e quindi lui piangeva perché diceva: io ho paura a farmi operare qui, voglio tornare immediatamente in Francia, ma come faccio che mi hanno rubato tutto, eccetera, sono... E capivo che voleva dire: mandami, aiutami. E lei quanto gli ha mandato la prima botta per curarsi la peritonite? No, questa volta non gli ho mandato nulla. Ma quindi lo lasciava morire di peritonite? Scusi, no. Dov'era l'amore? Dov'era l'amore? Anche perché lui mi ha detto, non mi aveva ancora detto mandami i soldi, mi aveva detto adesso vediamo. Allora io immediatamente sono andata alla polizia. Di quartiere, sono andata alla polizia di quartiere e loro mi hanno un po' con dei risolini, mi hanno detto: ma chiuda tutta questa cosa, in fondo che cosa le ha rubato? Non le ha mica rubato nulla, i sentimenti non contano, no? E quindi, perché non esiste qui in Italia. Allora, non mi dica quando ha tirato fuori i primi soldi, quello voglio capire. Ho tirato poi fuori 100 euro. Sciocchezza. In tutto 880 euro. Però la prima, perché avevo solo quello in casa, mi ha chiesto di. Mi aveva detto, dopo che si era fatto operare, che aveva venduto tutti i suoi strumenti digitali, no? Vabbè, un sacco di disgrazie, aveva bisogno di soldi. No, ma questa era già la preparazione per la truffa, per continuare la truffa, perché poi non avrei più potuto vederlo in cam, no? Lui mi ha detto che ha venduto la cam, che ha venduto il eccetera. Cioè la telecamera per sì, vedere. Sì, era già tutta una cosa. A parte che allora... sono incorporate in tutti i computer oggi, comunque va bene. Sì, però è così. E quindi mi dice: io adesso ho bisogno di pagare la casa di cura, perché sono andata a farmi operare in casa di cura, però tu i soldi devi mandarli al medico perché io non mi posso alzare, no? E mi dà il nome, un nome africano, controllo, esiste il nome del medico, esiste la clinica, esiste tutto, e io avevo quei soldi contanti, mi ha insegnato, perché non sapevo neanche che era possibile mandarli tramite Western Union. Comunque questi 880 euro, proprio precisi così, questa era la cifra. Ma sì, era 880, perché poi io ovviamente volevo anche il biglietto aereo per venire in Italia. E quindi dopo da questa cosa però ho capito che era una truffa. Ma certo che l'ho capito. Quindi l'amore è finito. Ma non è mica vero, no, l'amore... Allora, ferma un attimo, ci pensi un secondo, Lucia, perché devo dare la linea. È interessante, sì, vedo sì. Già ci sono... Yolanda, c'è già Lucia, altre persone stanno telefonando, perché come vedo... Sono contenta. Contenta, io un po' meno, perché mi dispiace per queste persone, però le sentiremo... No, sono contenta che telefonino, che emerga il fenomeno. Signore, non vi vergognate, avete visto, con tanto candore Yolanda lo sta raccontando. Può capitare a tutti di illudersi sull'amore. In fondo, il motivo... era sempre buono, bisogna salvare la vita a un povero soldato con la peritonite, che avevano rubato la valigia e tutto, quindi è umano che uno mandi 800 euro, però ci sono persone che hanno dato fondo alle loro sostanze anche in maniera molto più consistente. A fra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Melog. Cronache meridiane. Allora, mi è arrivata la richiesta di amicizia di un ragazzo bellissimo, un modello, tutto palestrato, pieno di addominali, una roba bello, sì, con questi sorrisi, a 36.000 denti, proprio una cosa. E ho trovato abbastanza curioso, anche perché ho controllato e non avevamo alcun amico in comune, quindi io comunque, come regola che mi do di base, è non accettare amicizie da sconosciuti che non abbiano almeno un amico in comune con i miei. Quindi alla fine ho cassato la richiesta, perché ho detto: ma questo che cosa può volere? Poi a un certo punto ho pensato: questo sarà sicuramente un gigolò, magari che cerca vittime in internet. Ho capito subito che insomma non c'era nulla di buono e nulla di serio dietro. Non è che un gigolò cerchi vittime, cerca clienti, non è una vittima. Se uno paga per avere una prestazione non è una vittima, ma è lui la vittima, che è considerato oggetto di sfruttamento sessuale. Ma qui nulla abbiamo a che fare con i gigolò, con il commercio sessuale. E qua è una materia che coglie molto più nel profondo, molto più preziosa, è anche molto più sensibile del semplice compiacimento carnale, no? Qua c'è di mezzo il sentimento, c'è il turlupinare sul lato sentimentale una donna. 800 24 00 24, questa mattina parliamo delle truffe amorose. Lucia, buongiorno. Sì, salve. Io sono in macchina, sto guidando, spero che mi senta, mi fa molto piacere poter dire la mia. In realtà io non ho subito una truffa, però ho chiamato perché sono stata contattata negli ultimi 2 o 3 mesi almeno da una ventina di queste persone. E tutti i profili, diciamo, di uomini anche sulla cinquantina, però militari, alcuni che stavano in Afghanistan o comunque in zone di guerra, altri che almeno dal profilo sembravano americani, ma non ho accettato nessuna di queste richieste perché ho subodorato subito che c'era qualcosa che non andava. Uno si dovrebbe anche chiedere, uno può essere anche una donna quanto mai affascinante, sicura di sé, ma improvvisamente dalla prima linea di fuoco dell'Afghanistan tutti alla ricerca della pollastra italiana. Mi sembra strano. Bravissimo, proprio questo, Nicoletti. Poi io sono malfidato di natura, andavo subito, come anche la signora che mi ha preceduto, a vedere se c'era un amico in comune. Notavo che questi profili avevano una caratteristica comune, cioè che queste foto non avevano nessun mi piace dietro, per esempio, non si vedeva nulla di questa persona, non si poteva leggere gli amici che avevano. Ma l'approccio come veniva? Una semplice richiesta d'amicizia? Sì, allora ecco, infatti io tra l'altro la voglio ringraziare perché sono una persona curiosa di natura e quindi mi chiedevo che cosa ci fosse dietro tutte queste richieste strane, e lei si sarà domandata ma che ci avrò io che piaccio tanto ai militari improvvisamente. Tra l'altro io seleziono molto i miei amici, ne ho pochi fidati, che conosciuti di persona, comunque persone ecco che stimo, eccetera. No, volevo dire che arriva questa richiesta d'amicizia, tu vedi questo profilo e c'è poco nulla, però la caratteristica che hanno in comune è il fatto che sono tutti belli uomini, diciamo, affascinanti, insomma, ecco, qualcosa c'è. Io le ho sempre eliminate e qualche volta Facebook stesso mi dice che posso contrassegnarle come spam, non so se lei sa. Sì, cioè il fatto che poi queste persone non mi potranno più ricontattare, ecco. Sì, lei ha capito esattamente. Quindi Lucia si è avveduta, anche le campagne stampa a volte servono, far sentire, raccontare le storie rende più guardinghe le donne. Sentiamo anche Margherita. Margherita, buongiorno. Sì, buongiorno a lei Nicoletti, sono in linea? Sì, la sto ascoltando. Sì, buongiorno. Dunque, io ho ascoltato già la trasmissione precedente, dunque intervengo soltanto per dire questo. Su Skype, molto di recente, che io utilizzo perché abbiamo dei parenti con mio marito in America Latina, parenti stretti, mi sono capitati diversi militari. Noi abitiamo vicino a una base NATO qui a Vicenza e mi sono chiesta come mai tutta questa gente che chiede amicizia. Mi guarderanno dalla finestra, mi guarderanno. Non lo so, io tra l'altro ho un profilo con un vaso di fiori, non ho neanche una fotografia, non ho neanche i dati che sono una donna, insomma, le ripeto, lo utilizzo per i parenti in America Latina e sono rimasta molto così, molto strano sti generali. E che tutti generali erano? Tutti altri graduati? Sì, erano ufficiali americani, almeno 4 o 5 nel giro di pochi mesi. Ripeto, a me non interessava proprio. Ma può essere, scusi Margherita, è importante questo. Prego, che in questo prego. Caso conti la localizzazione. Lei era allora geolocalizzata, abitante a Vicenza. Sanno bravissimo. Che c'è la base NATO, dice... Quella la riempiamo dei militari americani. Io guardi, le telefono unicamente perché volevo appunto mettere in guardia magari alcune persone. Ho sentito che c'è questo fenomeno di richiesta soldi, eccetera. L'ho sentito nella sua trasmissione e poi in TG3 mi sembra. Rai 3 mi sembra. Chi l'ha visto? Ecco. Chi l'ha visto? Epica trasmissione. Chi l'ha visto? Ecco, allora volevo soltanto mettere in guardia chi mi ascolta, eccetera, magari nelle nostre zone. Può essere che magari siamo, non lo so io, perché non ricevo ricevuti veramente forse anche più di 3-4, metà 5-6. Anche ecco, perché gli altri ufficiali di solito quando sono di stanza nelle basi NATO hanno anche la famiglia, e se non hanno la famiglia hanno tutto il sollazzo che vogliono, e se anche hanno tutto il sollazzo che vogliono, che nulla toglie al fascino delle donne vicentine, comunque sia non credo che vadano a approcciare via Facebook così alla cieca. Hanno i balli al circolo ufficiali, hanno mille occasioni per conoscere gente proprio prima che vadano alla cieca così come un liceale brufoloso. Forse magari uno si fa qualche domanda. Grazie Margherita. Allora io però volevo leggere qualche SMS degli ascoltatori furbacchioni. L'SMS è, diciamo, il feedback della parte alta del pubblico, quelli che si sentono comunque di poter sempre dare sentenze. Sono talmente cretine che devono mettersi in mostra anche per farsi prendere per il culo. È troppo ingenua. La solita oca credulona da internet, Roberto. Si vede che di soldi ne aveva e via dicendo. Va bene, allora, Maurizio, buongiorno. Buongiorno, io telefono da Firenze. E io ho avuto praticamente un'esperienza un pochino diversa dalle solite. Questa volta è stata una donna allo scarso. Ma questo per far capire che succede anche noi uomini, non è che adesso... Certamente, infatti io la approfitterei appunto anche per dare un po' di attenzione anche agli uomini, perché ci sono molti uomini che ci cascano, però purtroppo stanno zitti, è chiaro, si vergognano. Non si fanno avanti perché si vergognano, eccetera. Anzi, volevo fare un appello appunto a tutti gli uomini che hanno avuto queste problematiche di fare denunce e farsi avanti, perché non c'è nulla da vergognare. Allora, come è cominciata la storia? Cominciamo dall'inizio. Niente, io stavo facendo, era un periodo che ero, diciamo, in crisi con la mia famiglia, la mia moglie. Certo è che se uno galleggia nella passera non sta a perdere tempo in rete, questo è chiaro. Scusi il paragone, bisogna dirlo, perché si prende in un momento in cui siamo soli, in cui ci sentiamo soli. Infatti siamo soli, e quindi in quel momento si ha l'esigenza di conoscere qualche persona. Allora ci si iscrive a un sito, siti che ci sono tanti. Tinder, siti, questi qua. Ci si abbona anche. E niente, per cercare amicizia. Poi dopo diversi giorni ti arriva una persona, una signora, che ti legge il profilo, ti dice: sei molto interessante, mi piacerebbe fare la tua amicizia. Poteva essere la signora giusta. La signora giusta, in effetti si manda anche la foto, perché mandano le foto, la vedi che è un aspetto grazioso, e quindi ovviamente accetti l'amicizia. Fermo un attimo, Maurizio, devo un attimo lasciare lei, però solo una domanda, mi risponde in maniera telegrafica. Era adeguata, diciamo, al suo target? Cioè non è che fosse una modella di 20 anni, lei magari è un piacente signore. Era adeguata, era possibile? Diciamo, aveva 20 anni meno di me, e quindi qualcosa poteva pensare, dice, perché questa amicizia. Però dal punto di vista dell'amicizia poteva andare. Io non cercavo cose strane, cercavo solo un rapporto. Vabbè, una ventenne amicizia con un po' di Edipo, che magari aveva piacevolezza a parlare con lei. Fermo un attimo, resti lì, non se ne vada. 800 24 00 24. Nella truffa amorosa ce n'è per tutti. A tra poco. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta. Melog. Cronache meridiane. 800 24 00 24. Parliamo della truffa amorosa, un nuovo metodo per estorcere soldi basato non tanto sull'illusione della consumazione fisica, dell'avventura sessuale, no, invece no, con l'antica, vecchia e stramaledetta maniera di prendersi gioco di una persona giocando sui suoi sentimenti. Maurizio ci è cascato, abbiamo parlato di donne, ma cade anche agli uomini. Maurizio, partiamo dalla coda. Quanto ha sganciato lei per questa donna? Poi vediamo nella fattispecie. 42.000 euro. Ecco, lei 42.000 euro l'ha investita su una persona con cui l'ha vista, l'ha incontrata, ci ha parlato? No, ho avuto la comunicazione per via mail, per via WhatsApp, queste cose qui, mai direttamente fisicamente. Ma non si è mai chiesto che mai non ci vediamo, non parliamo? Lei è stata lei che mi voleva incontrare, perché lei era della Costa d'Avorio. E lei, che poi non si sa chi c'è sotto, perché io dico lei, ma era una ragazza africana. Era una ragazza, dall'aspetto fisico delle foto sembrava europea. In realtà lei viveva in Costa d'Avorio, succede, si diceva, poi sì. Sai. E niente, voleva venire. Magari in l'unica, l'unica cosa vera di tutto era che vivesse in Costa d'Avorio, può essere, perché comunque, appunto. E comunque, quante foto le ha mandato? Ha mandato 5-6 foto. Ma vestita, tutte... nuda, com'era? No, vestitissima. Sempre per dire, non c'era niente di sesso dietro, solo nulla, niente, sentimenti. Niente, nemmeno provocante, niente. Erano foto normali che si fanno comunemente, insomma. Ecco, ma i soldi, con quale casuale gliel'ha chiesti? Perché diciamo che lei mi rilevava che dice che ho un'eredità avuta da mio padre che è deceduto, che è piuttosto ospicua. Però io, vivendo in Costa d'Avorio, vivendo nella povertà, diciamo, non ho la possibilità di sbloccare questo patrimonio, non ho la possibilità di pagare una tassa, che c'è una tassa che si chiama UEMOA. La tassa di successione sarà una cosa del genere. Tipo una tassa di successione che io non ho la possibilità. E poi chiaramente mi manda anche dei documenti a dimostrare che è tutto vero, cioè dei documenti, ho tanto di logo, di timbri, di firme, tutto quanto. Ma gliel'ha presi tutti in una botta sola oppure un po' a tranche? Questo per pagare la tassa di successione, diciamo, questo UMEA. Poi c'era... E l'UMEA quant'è l'UMEA? Quanto corrisponde? In base a quanto... E quindi quanto? Quindi in questo caso io dovevo pagare 4.000 euro. Vabbè, voglio arrivare a 40.000, però... Perché era piuttosto sostanzioso, diciamo. Ma gli altri 36.000? E poi, vabbè, poi mi inventava che aveva avuto dei problemi di salute, eccetera, eccetera, doveva essere ricoverata... Comunque, per farla breve, ogni tanto insomma inventava sempre qualche scusa. Attraverso quale dispositivo lei elargiva questi soldi? Faccia un bonifico? Come... Sì, no, con niente bonifico. Noi bisognava pagare solo con il money transfer classici, tipo Western Union, MoneyGram. Diciamo quei posti dove vanno gli stranieri per mandare sì, i soldi sì, a casa. Esatto. Perché che non c'è traccia, non rimane traccia. Non c'è traccia, quindi in questo caso appunto... Le andava lì ogni tanto e sganciava botte di 4-5 mila euro. In base a quello che mi richiedeva, con documentazione allegata, cioè non mi diceva le cose tamere e così, perché ti mando una documentazione. Questi erano dei prestiti comunque, nell'intenzione erano dei sì, prestiti. Era quello di prestarle e poi dopo lei l'avrebbe rireso tutti i soldi a quando si doveva incontrare, insomma, in Italia. Poi, insomma, per varie vicissitudini non è potuta venire, ovviamente, e quindi niente, siamo rimasti, lei ha preso i soldi e io sono rimasto sul fatto. E beh, come alla fine, quando c'è stato, diciamo, quando si è detti l'addio, quando lei ha detto, guarda, ti ho dato 44.000 euro, basta, ciao. Sono stato io a dire chiuso, perché qui non viene nulla fuori e quindi te mi stai ingannando, e lei continuava a dire no, non è vero, guarda, ti mando anche addirittura la possibilità di averli restituiti, perché noi abbiamo la possibilità di restituirli. E perché non se l'ha fatti restituire? No? Perché c'era da pagare ulteriori soldi alla polizia criminale della Costa d'Avorio. Ah, certo. E quindi a questo punto non ci sono cascato più, nel senso... Ma questi cos'erano, i suoi risparmi praticamente? Erano risparmi, erano, diciamo, che avevo, e che quindi ora praticamente... non avendo più questi soldi mi rende la vita difficile. Certo, ovviamente. Lei pensi quanto ci andava a mangiare e bere, e anche a donne, con certo, questi soldi. Ma poi appunto, quindi infatti ora sto pagando le conseguenze, sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista proprio morale, psicologico. Ma lei non si era consigliato con nessuno, non c'era un amico di riguardo? No, perché vivendo appunto nella solitudine, cioè stai in una situazione così, soffri da solo. No, no, ma diciamo, vedo però la prendo abbastanza con ironia, alla fine questa cosa l'ha superata. Fermo un attimo, Maurizio, bocca al lupo, non ci caschi più, quel che è perso, faccia finta che se l'hai giocati al tavolo della roulette, non ci pensi più, la prossima volta prima cerchi di vedere la persona in carne ed ossa, poi decida se vuole darle anche i suoi risparmi, che è anche lecito questo. Rossella, velocemente. Buongiorno. Senta, la storia è molto breve, perché è stata stroncata immediatamente da mia sorella. Quest'estate era stata contattata su Facebook con una fotografia di un aiutante generale americano. E chiaramente lei ha avanzato subito le sue riserve. La fortuna ha voluto che avesse una sua collaboratrice, che c'ha il marito in missione fuori, e gli ha domandato, è riuscito a far controllare la fotografia da questo vero nostro soldato italiano che sta in missione, il quale ha detto: ma questo è il generale di corpo d'armata degli americani, c'è una cosa ridicola. Quindi gli è andata male e l'hanno sgamato al volo. Subito mia sorella, immediatamente. È andata bene, sua sorella è andata bene. Stia attenta, la prossima volta magari è meglio che esca con dei caporal maggiori, almeno li veda in faccia prima di mettere mano al portafoglio. Allora, velocemente in chiusura, Yolanda Bonino, che ricordo è la prima persona con cui abbiamo parlato, presidente l'ACTA, c'è un'associazione contro le truffe affettive in Italia. Yolanda Bonino, per contattarvi e per avere modo di uscire finché sia in tempo da questa morsa, cosa bisogna fare? Mi può contattare al numero telefonico? Non lo dica al telefono. Chiami noi e poi noi diamo il numero. Sì, perfetto. Allora, per cercare di... bisogna comunque denunciare a voi, a chi l'ha visto, a tutte le... insomma, e a noi. E poi, un altro... non bisogna mai isolarsi, mai. Parlatene con amiche, se non volete coi figli, perché c'è un po' di pudore, eccetera. E poi c'è un'altra cosa, noi vi insegniamo come fare per capire se la fotografia è una fotografia usurpata o no. Per esempio, si mette la fotografia sotto i meccanismi di Google, ha un programma. Sì, quello è chiaro, però diciamo, sì. se vi cerca un militare straniero e vi dice conosciamoci, mangiate un po' la foglia, non c'è bisogno di avere dei grandi cervelli. Poi c'è sempre la ACTA, Associazione contro le truffe affettive, che vi può aiutare a uscirne se ne siete dentro. Se ancora non ne siete entrati, pensateci bene due volte, perché forse il gioco non vale la candela. Alla prossima.